GR Sport. Buongiorno da Carlo Genta. Pace fatta, Roberto Mancini resta all'Inter. Si è chiusa così una giornata come minimo rocambolesca, dopo un incontro avvenuto in serata tra il presidente nerazzurro e il suo allenatore. Un sereno improvviso. In precedenza Mancini aveva diretto l'allenamento in un clima quasi da addio alla squadra e Moratti aveva addirittura lasciata aperta la soluzione di una rottura immediata. Sentiamo cosa aveva detto. Credo che sia stato qualche cosa che forse aveva dentro da Liverpool per me, perché mi sembra anche strano che improvvisamente gli venga in mente così. Però per il momento non riesco a dargli una giustificazione, molto sinceramente. E adesso bisogna mettere un po' più sul piano invece di quelle che sono veramente le volontà, e quindi c'è un incontro certamente, penso domani mattina, domani in giornata. Non pensavo e non penso assolutamente di cambiare. C'è un contratto, vale, c'è fiducia nei suoi confronti, vedere se lui ha fiducia in se stesso per rimanere, insomma. In realtà, come detto, l'incontro annunciato da Moratti per oggi c'è stato ieri sera. E al termine il presidente dell'Inter ha detto: ho avuto una chiacchierata con Mancini, il quale mi ha ribadito che vuole rimanere all'Inter anche l'anno prossimo e per tutta la durata del contratto, e che la prossima stagione vuole vincere la Champions League. A me ha ribadito il fatto che vuole rimanere, e che vuole rimanere anche per l'anno prossimo, per tutti gli anni di contratto, che vuole vincere la Coppa dei Campioni l'anno prossimo. Quindi sinceramente è molto diverso dalla situazione che si era prospettata sia a me sia a tutta la società, sia la squadra fino a stamattina. Poi io credo che parlerete con lui, sentirete da lui quelle che possono essere state sia le ragioni di questa sua uscita di ieri, sia invece la motivazione più profonda attraverso la quale si sente dispiaciuto con me, e in tutti i casi ha confermato invece la sua volontà di rimanere, e non a forza ma con il piacere di farlo, di rimanere qui per tutto quello che possa essere la durata del contratto, a meno che qualcuno cambi idea, insomma. Ma per il momento mi sembra che sia una soluzione felice. È importante che poi comunque anche con la squadra ci sia un chiarimento. Per ironia del destino, una giornata così strana e convulsa è stata anche quella della presentazione al Parma di Héctor Cooper, l'allenatore dal quale Mancini ha in pratica preso il testimone nerazzurro dopo il breve interregno di Zaccheroni. Sentiamo Cooper. L'eliminazione dell'Inter della Liga dei Campioni, sapevamo tutti che era una partita difficile. Mancini, che questo è veramente una sorpresa, non so che cosa è successo per prendere questa decisione, e lì basta. Inter-Juventus si giocherà senza la tifoseria bianconera, lo ha deciso il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, perché la gara è in calendario, lo ricordiamo, per il prossimo sabato 22 marzo ore 20:30, presenta particolari profili di rischio. Il prefetto ha quindi disposto l'eliminazione del settore ospiti con annullamento dei relativi tagliandi già eventualmente venduti. La Fiorentina vendica l'Inter ed elimina l'Everton, l'altra squadra di Liverpool, ma ai viola servono i rigori dopo che gli inglesi avevano pareggiato il conto con la gara di andata 2-2 al Franchi, stesso punteggio ieri sera a Goodison Park. Dopo i supplementari la Fiorentina è stata perfetta dal dischetto, segnano Pazzini, Montolivo, Osvaldo e Santana, mentre l'Everton sbaglia due volte, un palo e una grande parata di Frey. La Fiorentina è così ai quarti di finale di Coppa UEFA. Lasciamo il calcio per il basket. Con le unghie la Lottomatica Roma rimane aggrappata all'Eurolega. I romani dovevano battere il Barcellona per conservare speranze di accesso ai playoff, e la vittoria è arrivata 68-63 col fiatone dopo un ottimo primo tempo della Lottomatica. Decisivi i 16 punti di Lorbeck e gli 11 di Ukic e Hawkins. Ora però Roma dovrà vincere in Spagna in casa dell'Unicaja Malaga nell'ultima giornata delle Top 16, sperando che al contempo il Barcellona perda con il CSKA a Mosca. Infine, grandi firme dello sprint per aprire la Tirreno Adriatico. La prima tappa è stata vinta a Civitavecchia da Oscar Freire, che ha battuto Alessandro Petacchi. È tutto per GR Sport di stamattina. Di nuovo buona giornata.